www.radiotrepod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la temperatura media è di 38 gradi centigradi, Cappa e Drago sono stati traditi dal pollo di sbattimento e condotti al reparto nutrizione forzata. Piano Cappa, stai in equilibrio, che qui è un nastro trasportatore. Cappa, e penso che ci stia trasportando al reparto nutrizione forzata. Una bella roba. Eccoci. Ben arrivati, Pollo Cappa e Pollo Drago. Sono la macchina nutrice della fabbrica di polli. Ora sarete sottoposti a uno scan metabolico per stabilire una dieta personalizzata e allineata ai parametri della fabbrica di polli. In pratica dovrete aumentare di 500 volte il vostro peso in 38 giorni. Che cosa? Ricordate, i pulcini aumentano da 40 grammi a 2 kg, quindi voi dovrete passare da 80 kg a 40 tonnellate, pari a 4.000 kg, in 38 giorni. Ma è una pazzia, ma che dieta ci vorrà? Un attimo di pazienza e lo saprete. Dunque, ecco qua. Come antipasti abbiamo una alternanza di caldi e freddi in quest'ordine: fagottini di pastella ai porcini con fonduta vallostana, carpaccio di vitella piemontese con tartufo e scaglie di grana, flan di cardo gobbo con crema di castelmagno e infine lardo di colonnata. Come primi, tagliatelle al ragù bolognese, pasta al forno alla siciliana, risotto alla milanese, spaghetti allo scoglio. Come secondi? Ma basta, ma siete impazziti, sembra un pranzo di nozze. No, Pollo Cappa, era soltanto la prima parte del menù del pranzo di oggi. Le portate verranno tritate tutte insieme e introdotte forzosamente nel vostro organismo sotto forma di pappetta immangiabile a mezzo tubo grosso così infilato nell'esofago. Buon appetito! No, la pappetta immangiabile, no! Il tubo grosso così infilato nell'esofago, no! Invece sì, ma dovete ancora essere edotti sui secondi di carne e di pesce. Baccalà accomodato, uccelli scappati, ma ci stanno incatenando e... cima alla genovese, polpettone con patate, melanzane alla parmigiana, abbaccio al forno, coda alla vaccinara, bœuf alla mode de can, ragù di cinghiale e polenta, trote al blu, e chi più ne ha più ne metta. Vedi Zarek, e anche tu Joao, ascolta, la vita è fatta così, a volte tradire conviene per ottenere una vita migliore. Tutto sommato, Cappa e Drago sono in grado di difendersi da soli. Se la possono cavare, no? Se poi proprio non riescono a scappare dalla nutrizione forzata, che cosa vuoi che li capiti di tanto speciale? Verranno nutriti per un quarto d'ora ogni ora. Li tengono al buio per 45 minuti e alla luce per 15. In quei 15 minuti mangiano, che sono obbligati a mangiare, mangiano un sacco e poi diventa di nuovo tutto buio e quindi si appisolano poi. Poi, dopo una settimana circa, a questi ritmi, succede che li fanno fare la prova. Sì, perché se riescono a camminare sulle loro zampe, bene. Se invece muoiono d'infarto, La fabbrica di polli. Ma che schifo! Aiuto. Sono pienissimo. Sì, però, sai una cosa, Cappa? Sono riuscito a distinguere nitidamente il flan di cardo gobbo con crema di castelmagno. mezzo a tutta quella, quel pastone. Sì, ti dico di sì, il Castelmagno ha queste caratteristiche inconfondibili, tipo il sapore forte e piccante dopo i 5 mesi di stagionatura, che ne fa uno dei formaggi più amati dagli intenditori, K. Ora però ci vorrebbe tipo un amaro per digerire. Quel traditore del pollo in sbattimento. Ma guarda, te lo dico, Drago, ce la pagherà. Ah, sì. È come se ce la pagherà. Io me l'aspettavo, il traditore per natura. E adesso... Ma... è diventato tutto buio. Ma cosa succede? Però che sonno. C'è un bel calduccio qua, K. Io mi faccio una pennica. Ma quale calduccio? Quale pennica? Sì, dai, come K, parli? Dopo tutto quello che hai mangiato, un pisolino poi ti farà bene. Ma Drago, ma quale pisolino? Una passeggiata, quello sì. Sì, una bella passeggiata, no, sì. Eh sì, solo che come si fa? Ci hanno chiuso in una gabbia. Dentro la gabbia di Faraday. No, dentro una gabbia per i polli, ma insomma. Ma quanti chili vogliono farci prendere? Credo fossero 500 volte il nostro peso forma. Il nostro peso forma, 80 kg, sono 40 tonnellate. 40 tonnellate? 40 tonnellate. L'uomo più pesante di tutti i tempi è stato John Brower Minnock di Seattle e pesava 635 kg nel 1978. Poi è morto. È morto. Basta, K, io non ce la faccio più. Non è malaccio sta pappetta, però adesso basta, No, la chiamano pappetta immangiabile, fai un po' tu. Ehi, ma hanno di nuovo spento le luci. E mi viene subito sonno, ma cos'è sta roba? Stai attento, ti stai comportando esattamente come vogliono loro. Ma loro chi? Loro, Drago, i nemici. I burocrati che hanno deciso che anche noi, che non siamo polli, ma esseri umani. Dillo forte. Anche noi dobbiamo sottoporci a questo trattamento. Punto disumano. Anche se fossimo polli, sarebbe comunque un trattamento disumano. Dispogliano, secondo me. Comunque, Drago. Drago, dai, non addormentarti, Drago. Perché? Altrimenti perché fai il è loro buio, gioco. È buio. Mangi e dormi e non pensi a niente finché muori. Vabbè, ma è sempre stato così con i vari loro con cui abbiamo avuto a che fare, no? Mangiare e dormire per tutti e alla gestione dello Stato ci pensavano loro. Eh già. Certo che quando invece che loro. Quando c'era lui. Parole sante. Quando invece di loro c'era John Lui, sottotitolo Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Joao, lo so che c'è sbattimento perché tra 32 giorni dovresti essere macellato, vuoi che non lo sappia. Però almeno sappi che tu sei stato fortunato già a nascere. Perché il tuo uovo poteva anche non essere fecondato, E le uova non fecondate vanno direttamente a finire in una fabbrica di shampoo. La fabbrica di shampoo. Signor Shampoo! Signor Shampoo! Cosa fa, signor Shampoo? Lasci stare le uova! Signor Shampoo! Lo shampoo, quello per i capelli, no? Lo fanno anche con le uova. Le uova danno quel buon profumo ai capelli, no? Quel profumo di bianco d'uovo che fa vomitare. Che poi non chiedermi perché, Joao, però è così. Perché se non nasci, tu finisci nello shampoo, Queste sono cose poi che si tramandano tra polli da generazione in generazione, E nessuno mi è trovato indietro per raccontarcelo, D'altra parte, se non nasci, non nasci, no? E se l'uovo se lo mangiano o lo usano per fare lo shampoo, che differenza c'è? Quasi, quasi mi faccio uno shampoo. Shampoo rosso, giallo, quale marca mi va meglio? E questa? Schiuma! Che cosa succederà adesso? Come finirà l'esperienza enogastronomica di K e Drago? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo indigeribile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. barlumen.com. La Fabbrica di Polli è trai.it. Ma io ho fame. No, Joao, non ricominciamo con questa storia della fame, eh? Se mangi, ingrassi. E se ingrassi, fra 32 giorni ti macellano. Lo sai, no?